Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. Enzo Argante, il traghettatore, ben trovati. Vi parliamo degli eventi della settimana prossima, dal 13 giugno in poi. Cominciamo con un appuntamento con l'ABI, l'Associazione Bancaria Italiana, che parla di immigrati e di inclusione finanziaria. Infatti saranno presentati proprio martedì a Palazzo Altieri a Roma i risultati della ricerca che l'ABI ha fatto con CESPI, che analizza la relazione dei migranti con le banche. Sostanzialmente affrontiamo il tema dell'inclusione finanziaria e sociale dei cittadini stranieri. Durante questo convegno c'è un'altra, come dire, una notizia nella notizia: ci sarà una firma di un protocollo d'intesa, una formalizzazione di una partnership che è stata avviata con l'ACLI, con l'ANCI, con l'ARCI, la Caritas Italiana, la stessa CESPI, il CIS e l'Agenzia ONU, proprio per sviluppare questi strumenti utili a favorire una relazione fra questi cittadini stranieri che non hanno molta confidenza con i prodotti finanziari, per poter, come dire, ovviamente inserirsi più rapidamente in maniera più armoniosa. Sempre martedì, sempre quindi 14 giugno, ma a Milano, all'Auditorium di Asso Lombarda, c'è la nona edizione del Sodalitas Social Award, che sono dal 2002, che è il riconoscimento che viene assegnato alle imprese, associazioni, distretti industriali e organizzazioni che sono impegnate nella responsabilità sociale d'impresa, che è fra i temi più importanti per noi di Ferribot. Ne parliamo col vicepresidente di Sodalitas, Alessandro Beda. Buongiorno. Proprio il martedì nel pomeriggio alle ore 14:30 facciamo la presentazione e anche la premiazione del Sodalitas Social Award. Anche quest'anno numerosissime sono state le imprese che hanno partecipato, oltre 200, che sono divise in diverse categorie e vengono premiate per la loro responsabilità sociale e sostenibilità ambientale. È un appuntamento molto interessante perché è un po' l'apertura del mondo delle imprese al sociale, quindi sarebbe molto importante, come tutti gli anni, che ci sia anche molto non profit, molto associazionismo, molte imprese interessate a entrare sul tema della responsabilità sociale. E sono sicuro che anche quest'anno avrà successo, perché i progetti presentati sono molto validi e quindi anche i vincitori, ma comunque i partecipanti, saranno molto lieti di farli conoscere al pubblico. Sappiamo che durante questa giornata ci sarà anche la presentazione del Cresco Index, che è un'iniziativa che Sodalitas condivide proprio con il Sole 24 Ore. Assolutamente sì, insieme al Sole 24 Ore, che da 21 anni produce una bellissima classifica sulla qualità della vita dei territori italiani, noi insieme al Sole abbiamo enucleato 7 parametri che sono parametri sia di sostenibilità ambientale, ma anche dei parametri che segnaleranno la potenzialità di crescita dei territori, per vedere in quali territori nel futuro ci sarà più potenzialità di crescita. E sono parametri che riguardano non anche l'ambiente, ma anche il capitale umano, quindi partiremo dalla natalità per arrivare all'istruzione, agli asili nido, alla quantità di laureati del territorio, fino all'occupazione dei giovani e l'occupazione femminile. Questo ci darà una mappa di quali sono i territori italiani che hanno più nel futuro potenzialità di crescita. È un'iniziativa in cui devo ringraziare il Sole 24 Ore, perché è un ulteriore spunto sull'emulazione dei territori, che è un po' la molla per spingere al tema della sostenibilità. Per una volta ci fa piacere notare, fra l'altro, Beda, che si parla di crescita non in termini matematici, numerici, quindi di percentuali sul PIL, ma in termini di armonia, di vivibilità del territorio. Assolutamente sì, e poi in termini, qui veramente sarà sottolineato la potenzialità dei giovani, quindi dell'elemento di crescita umana dei territori, che sono il punto focale. In questi indici è stato inserito anche la quantità di migranti regolari occupati, che quindi anche quelli fanno parte delle potenzialità di crescita futura dei territori. Grazie ad Alessandro Beda. Abbiamo finito per questa puntata. Vi ricordo ferribot@radio24.it per segnalare le vostre iniziative. Ferribot va in onda alle 6:50 del mattino e alle 14 del pomeriggio. Redazione Luca Rinaldi, grazie anche alla regia di Filippo Aureggi.